Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati, sono le 16.07, Luca Tremolato al microfono, oggi puntata al femminile, quindi Cristina Tagliabue, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io mi metto come al solito in un angolo, anche se poi non è così, parlo troppo, voi fermatevi, è fastidioso, lo so, ma sono fatto così. Però insomma oggi affrontiamo un tema estremamente interessante, perché è un tema che riguarda la misurazione dell'economia da un certo punto di vista, dell'economia in casa, e abbiamo scelto di ragionare sull'economia in casa prendendo insomma come modello anche la donna, per cui abbiamo unito due ambiti, cioè l'economia sommersa di quello che le donne o gli uomini, entrambi, fanno in casa e che non è misurato, e insomma la donna che di fatto storicamente, possiamo dire così, mi stai guardando male? Sì, in effetti. Ecco, no, nel senso che due settimane fa avevo intervistato Saramago, che era qua in Italia, mm-hmm. e diceva che non è, la parità non è possibile, che la donna starà sempre in casa a stirare le camicie del marito, che poi, come dire, andrà al lavoro, ritornerà, avrà bisogno di qualcuno. Grande che scrittore, sempre, ma non certo illuminato, insomma, dai, su via, ci sono. No, cioè, beh, insomma, diciamo che è stato interessante comunque ascoltare un punto di vista di un uomo di 80 anni, e poi ti capitano in mano dei libri, leggi, guardi, ascolti, per esempio... Così ho sotto mano adesso un libro che si chiamava L'Italia fatta in casa. Io non sono un'esperta di parolacce tipo PIL, prodotto interno lordo, eccetera. Però credo sia molto interessante capire se è misurabile la ricchezza prodotta dalle donne che lavorano in casa e non hanno un contratto di lavoro, perché non in realtà hanno, la casa è la loro. Noi proprio per questo abbiamo invitato in trasmissione la dottoressa Paola Profeta, professoressa di Scienza delle Finanze alla Bocconi. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo un brevissimo curriculum su di lei. Paola Profeta, classe 1972, ha due figlie e una grande passione per l'economia. Nel 95 si laurea in Scienze Sociali ed Economiche all'Università Bocconi di Milano. Successivamente ottiene un PhD in Economia presso l'Università di Barcellona. Ha studiato anche alla Columbia University. È professore associato presso la Bocconi. Insegna Scienze delle Finanze, ricercatrice presso Econ Pubblica, Centro di Ricerca per il Settore Pubblico e presso il Centro di Studi Economici CESIFO. Studia soprattutto sistemi comparati di tassazione. Quando le si chiede cosa fa nel tempo libero, la sua risposta è: ma chi ce l'ha il tempo libero? Poi ci pensa e aggiunge: non è vero, mi piace molto cucinare, inventare nuovi piatti e fare lunghi viaggi. Allora, un lungo viaggio sarà questa puntata, anche perché abbiamo in trasmissione tra l'altro Anna Zavarit del Sole 24 Ore, per cui insomma affronteremo anche il tema legato un po' alle mamme che insomma interrompono per un tempo definito il lavoro per poi ritornare. Insomma, sarà, ne vedremo delle belle e ne sentiremo delle belle, ma adesso andiamo un po' a misurare questo PIL domestico. Esatto, la professoressa Profeta, io davvero sono curiosa, perché in realtà appunto ci stava spiegando prima che lei studia moduli, numeri. Ecco, allora possiamo parlare in Italia di numeri prodotti dalle donne, no? Io leggevo all'interno di questo libro di Alberto Lesina e Andrea Ichino, L'Italia fatta in casa, che praticamente in realtà le ore lavorate in generale dagli italiani sono inferiori rispetto che le ore lavorate negli altri paesi. E poi questo, come dire, questo lavoro che producono le donne, che comunque non è conteggiato da nessuna parte, come si fa a iniziare a conteggiarlo? Soprattutto poi... E soprattutto non so, che cosa ci dice questo, esatto, questo lavoro? Allora, in primo luogo nel libro dei due autori si parla di lavoro fatto dalla famiglia in generale al di fuori delle statistiche ufficiali, quindi al di fuori del PIL. Cioè l'idea è che la famiglia in Italia si produce in casa molto di più di quanto non succeda negli altri paesi, per cui la vera ricchezza del nostro paese sarebbe proprio il lavoro domestico. Questo lavoro fatto in casa è prevalentemente svolto dalle donne, non soltanto dalle donne, ma prevalentemente svolto dalle donne, e ci porterebbe a migliorare la nostra posizione nelle statistiche ufficiali di ricchezza prodotta, quindi del PIL, ricchezza prodotta in un paese, rispetto a quelle che sono invece le classifiche attuali, diciamo. In particolare, se noi vediamo il confronto con paesi a noi simili, come per esempio la Spagna, rispetto al quale ultimamente stiamo perdendo in termini di PIL, in termini di ricchezza prodotta negli ultimi anni, invece se conteggiassimo anche il lavoro fatto in casa, riguadagneremmo delle posizioni. Qual è il motivo di questa differenza, di questa grande ricchezza che non riusciamo a misurare, ma che c'è, mi sembra di capire? Sì, il motivo è che appunto in Italia si fa tanto lavoro domestico, si fa da parte dei membri della famiglia, cioè da parte delle donne che lavorano principalmente in casa anziché sul mercato, e quindi svolgono tanto lavoro, per cui per esempio, dicono gli autori, se io cucino un piatto di spaghetti da solo a casa, questo non viene conteggiato nel PIL, mentre se vado al ristorante viene conteggiato nel PIL. Questo è l'esempio iniziale che fanno nel libro, e così tantissime altre cose. Se io mi occupo da sola della mia casa come donna e non lavoro sul mercato, questo non viene conteggiato. In realtà è il lavoro che viene svolto, ma è svolto all'interno della famiglia. Tra l'altro gli autori alla fine comunque decidono di non domandarsi il perché sia la donna che più dell'uomo fa i lavori in casa. In qualche modo dicono è un dato di fatto, o no? Sì, in realtà loro dicono che c'è una motivazione, che c'è proprio alla base di tutto questo ragionamento, una divisione del lavoro domestico che in Italia è molto sbilanciata nei confronti della donna, tra uomo e donna, rispetto a quello che invece succede in altri paesi. Diciamo che è importante anche sottolineare che comunque questo non è visto come un dato positivo, cioè il fatto che noi produciamo tutta questa ricchezza in casa, anziché sul mercato, per cui se facessimo delle classifiche migliori andando a includere questo lavoro il nostro paese risulterebbe meglio di quanto in realtà non sia adesso nella graduatoria. In realtà però è una trappola, cioè questo, il fatto che la vera ricchezza italiana sia creata all'interno della famiglia è una trappola, perché ha delle conseguenze molto pericolose per tutta una serie di aspetti, come legami appunto tra uomo e donna, quindi la donna rimane relegata nel ruolo del lavoro domestico. Come diceva Saramago, allora insomma. Però attenzione, c'è un sms su Saramago che dice, se Saramago Saramago insomma sostiene queste cose sulle donne è interessante, però se lo dice il fidanzato uno lo molla e questo è vero. Però volevo tornare su questo tema perché è giustamente una trappola. Tra l'altro do il numero verde 824 0024, gli sms 349 238 6666, perché ci sono, è anche una trappola ed è divertente da osservare perché è estremamente di moda, nel senso che oggi si sta mettendo molto in discussione il modello di PIL, cioè come si misura la ricchezza di una nazione, e sicuramente il fatto di scoprire che l'Italia ha queste ricchezze intangibili è interessante. E poi perché giustamente per la condizione della donna è un gioco strano, perché fin quando le donne si smazzano una serie di lavori e in questo senso consentono anche all'uomo di lavorare e di creare altri tipi di introiti per la famiglia, diciamo che non è una società uguale da questo punto di vista. Questo si può già dire dai dati? Sì, non è uguale, ma soprattutto quello che sottolineano gli autori, su quale io sono anche molto d'accordo, è che non è detto che sia efficiente, perché se si perpetua questa divisione del lavoro per cui la donna si deve occupare delle vicende domestiche e l'uomo fuori, questo si perpetua anche indipendentemente dal talento, delle abilità e delle capacità delle persone. Per cui per esempio nel mondo dell'istruzione spesso e volentieri sono le ragazze quelle che vanno meglio, ma se c'è l'idea che comunque di fondo la divisione del lavoro è fatta in questo modo, stiamo sprecando delle abilità, ecco, dei talenti, perché poi si fa per esempio anche riferimento a una famiglia in cui c'è un ragazzo e una ragazza, magari la ragazza va anche meglio a scuola, ma comunque per qualche motivo sarà lei a doversi occupare dei genitori anziani, dei bambini, a fare da madre, ecco, sorella, la domanda eccetera. Centrale a questo punto è quanto è cultura e quanto invece è organizzazione del lavoro. Questo mi sembra il trade-off centrale, che chiaramente ci permette di capire anche il nostro paese, cioè quanto oggi noi siamo strutturati in una maniera tale, poi al fin della fiera la donna è quella che deve sacrificarsi, o quanto invece tutto questo è frutto o conseguenza di un approccio alla cultura, quindi un approccio alla vita. Sì, sì, c'è una componente culturale molto forte di base. C'è anche una certa responsabilità delle istituzioni e di quelli che qualcosa, insomma, di come si può cambiare il paese, perché ci sono anche gli incentivi sbagliati, ci sono gli incentivi per andare in questa direzione, per cui nel momento in cui le donne sono quelle che fanno più fatica nel mondo del lavoro o appunto a rientrare dopo una maternità o comunque in una serie di circostanze a fare carriera, è ovvio che si perpetua un meccanismo che magari di base è culturale piuttosto che determinato dalle consuetudini, ma se non ci sono gli incentivi per correggerlo si perpetua. A me sembra che anche le aziende proprio siano dentro, non so se possiamo parlare di cultura aziendale, però in realtà io mi ricordo, lavoravo in una grande azienda e mi dicevano: non chiedere il part time, tanto non te lo diamo. Ah, inoltre, se tu chiedi il part time ufficialmente, quindi con una mail o tramite fax, non farai neanche più carriera. Ah, ecco, no? Ecco. Però esatto, se lo fai ufficialmente, perché? Perché così io rientro nelle statistiche di chi ha fatto domanda per il part time, e poi una grande azienda deve fare conti con questo alla fine. Se ha soltanto il 2% delle donne che chiedono il part time ufficialmente, allora, come dire, quando no, ci sono delle questioni anche che hanno a che vedere proprio con le leggi del nostro paese, possono dire: ah vabbè, ma soltanto il 2% delle nostre dipendenti lo ha chiesto. Invece nel momento in cui è il 20-30%, certo, allora a quel punto dovrebbero comunque comportarsi in un'altra maniera, no? Sarebbero un po' messi alle strette. Peraltro stavamo così, io quando facciamo queste puntate dedicate alle donne, questo non è un tema prettamente mio, ma insomma faccio qualche ricerca, il termine economia significa amministrazione delle cose domestiche, deriva da oikos, casa, e nomos, regola, vero professoressa? Sì, sì, dal greco, sì, è corretto, certo. Cioè, quindi mi ha stupito molto questa cosa. Tra l'altro anche Davide ci ha scritto dicendo: beh, effettivamente il PIL è tanto sbagliato anche perché non teniamo conto dei frutti dell'orto, è vero. Cioè, poi ci sono un sacco di economie che non vengono lette dal PIL, però insomma questa è una discussione che sì, ci condurrebbe, esatto, lontano. È, ecco, anche vero che al momento è l'indicatore migliore di cui disponiamo per misurare la ricchezza di un paese, nel senso che comunque è correlato con tutti gli indicatori che noi possiamo pensare di benessere, anche se è una misura imperfetta, è comunque quella grosso modo che tiene conto meglio anche di benessere, povertà o altri tipi di... E l'economia della felicità, come dire, ha a che vedere con, come dire, questo libro, con l'Italia fatta in casa, col lavoro in casa? Ma in realtà non si parla tanto di questo, perché appunto la felicità non viene misurata dai dati. Cioè è chiaro che si dà un quadro abbastanza così, insomma, nel momento in cui delle persone non riescono neanche ad esprimere o avere la possibilità, come per esempio le donne, di trovare o di esprimere il loro, la loro soddisfazione o di trovare un loro percorso, e questo è culturale ma è anche frutto di una situazione in cui non si vuole prendere atto, non si vuole cambiare alcune regole istituzionali, che gli autori fanno anche una proposta in questa direzione, è ovvio che si innescano dei processi per cui alla fine tanta felicità non c'è. Anna Zavarit, giornalista del Sole, blogger, un blogger con un nome che è tutto un programma, La Rivoluzione Rose. Lei ci ha dato qualche numero e noi li abbiamo un po' racchiusi in una scheda che sentiamo subito. In Italia meno di una donna su due lavora. A parità di qualifica e incarico, una donna è pagata quasi un quinto in meno rispetto ad un collega maschio. Il 20% delle donne molla il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Eppure, la relazione tra tasso di occupazione e natalità è positiva. Più una donna lavora ed è gratificata, e maggiore sarà anche la probabilità che faccia più di un figlio. Ma guardiamo il nostro paese dall'alto. L'Italia è ultima in Europa per fondi dedicati alle politiche familiari. Eppure l'incremento del numero dei nidi del 10% potrebbe far aumentare la probabilità di lavorare delle donne tra il 7 e il 12%. Un aumento del 10% del part-time potrebbe inoltre far crescere la probabilità di essere occupata dal 5 al 10%. Numeri e dati sono estratti dai documenti che trovate nel blog di Anna Zavarit sul Sole 24 Ore. Attenzione, allora io ti giro subito, che non te lo aspetti, proprio no, perché purtroppo io conosco Anna Zavarit da tempo, un sms che mi dice: ma perché Ma perché, si chiede Stefano, se una donna si prende cura dei figli, educandoli, eccetera, eccetera, si dice che sprechi il proprio tempo e i propri studi? No, su questo non sono assolutamente d'accordo. Avevo fatto... Anche perché tu hai due figli. Io ho due figli, sì. Io avevo fatto un'intervista sul blog che è una, secondo me, delle meglio riuscite e di quelle che mi hanno lasciato davvero qualcosa. Stefania Brancaccio, che è una delle ultime diciamo persone a essere stata insignita del Cavalierato del Lavoro. E lei mi aveva detto proprio all'inizio dell'intervista la soluzione non è mascolinizzarsi. Cioè, lei diceva l'importante è tenere in considerazione la famiglia, non rinnegare il ruolo della donna che a meno di evoluzioni scientifiche futuribili comunque rimane la procreatrice, diciamo, della prole familiare, e allo stesso tempo cerchiamo di conciliare il lavoro senza che uno escluda l'altro. Cioè, questo è un po', secondo me, la grande alfa sfida. Quella che è chiamata un po' la donna alfa, insomma, quella che fa tutto, che ha i figli, che però è brava nel lavoro, che fa sport, che però riesce a trovare anche il tempo per il marito e tutto, cioè questa mitologia, insomma, c'era anche una pubblicità divertentissima di questo modello di donna molto performante, cioè io faccio tutto. A me, insomma, un discorso da maschietto, però pare una sorta di schiavitù, cioè nel senso che se io poi divento schiava delle mie performance, del fatto che devo primeggiare in tutti i campi, è difficile trovare poi la felicità, anche perché poi usciamo dalla chiave, il PIL misura le performance, noi adesso ci stiamo muovendo verso degli indicatori che misurano qualche cos'altro. Volevo un parere sia di Anna Zavarit che della professoressa da Bocconi. Ma io non so se la metterei proprio così. Nel mondo ideale, e certamente l'Italia non lo è, in base anche alle classifiche europee, non si pone la out-out tra lavoro e famiglia, per esempio. Nel mondo ideale una potrebbe essere una bravissima professionista e una bravissima mamma, senza né togliere da una parte per aggiungere dall'altra. Purtroppo al momento non è così, non è così, per cui è tutto un gioco di togliere e mettere, come dicevano nella scheda di presentazione della professoressa, tempo libero non si ha, perché se si cerca di fare bene tutto, non è vero che non è possibile, ma è un gran lavoro. Sì, io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Anna Zavarit. Devo anche dire che diciamo si parla sempre di questo problema al femminile, in realtà comunque ad occuparsi dei figli, così come della loro istruzione, educazione, conoscenza, scuola e tutto il resto, possono tranquillamente essere anche i padri, cioè non è che debba essere per forza una competenza femminile quella di dover seguire nell'istruzione i propri figli, come diceva la persona che è intervenuta. Nello stesso tempo penso che comunque noi siamo in un mondo in cui le opportunità non ci sono, per cui se se fossimo in un posto in cui comunque ci sono le opportunità di scegliere, allora poi ognuno può decidere di stare a casa, lavorare o essere perfetta o no, però le opportunità in realtà non ci sono, e questo è il vero spreco: non dare le opportunità, non il fatto poi in sé, il fatto che però le opportunità non ci sono, e quindi si perde tanto rispetto ai talenti che si potrebbero coltivare in un mondo invece in cui le opportunità ci fossero e fossero pari per tutti. Non c'è anche un tema di misurazione della produttività? La butto lì. Cioè, com'è misurata la produttività sul lavoro? Sì, perché evidentemente, faccio un esempio, se io sono una donna che ho dei bambini, so che devo tornare a casa a una certa ora, insomma ho dei doveri, per cui magari concentro la mia produttività in determinate ore piuttosto che in altre. Se io sono un uomo, insomma, o sono un individuo che invece ha la sua giornata, io poi parlo da ometto, io punto tutto sul lavoro, nel senso, per cui è una parte della mia realizzazione importante, a quel punto cioè la mia giornata è quella, cioè non mi perdo un attimo. No, scusa Luca, qui io intervengo subito perché mi sento pungolata. Purtroppo io credo, questa è la mia opinione personale, che in Italia ci sia ancora una visione della si confonda la performance con il fatto di avere il sedere sulla seggiola in azienda. ok? Per cui purtroppo la mamma che concentra in 5-6 ore se che del part time, in 8 ore il lavoro, che magari un maschio che non ha, e ritorniamo sempre nelle solite dilemmi di conciliazione e di condivisione dei ruoli, un maschio che non ha la priorità di tornare a casa, che comunque non si sente chiamato in causa in prima persona, a dar da mangiare ai figli, a metterli a letto, andarli a ritirare all'asilo, a fare i regali, rimarrà fino alle 10. Purtroppo in Italia questo criterio della presenza fisica in ufficio è ancora premiante. Secondo me questa è una discriminante. È una cosa incredibile questa cosa, no? Che alla fine è più importante la relazione con le persone con le quali lavori, piuttosto che in realtà quello che produce. Allora adesso si sta formando una classe di precari che invece producono a progetto e devono assolutamente portare dei prodotti, altrimenti non vengono pagati. Invece quelli che stanno al lavoro siano lì e tutto è misurato in base a quanto stanno simpatici al vicino di banco, praticamente. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremblade al microfono. Siamo in collegamento con Copenaghen con Gigi Donelli. Buongiorno. Ciao Luca, buon pomeriggio. Saluto agli ascoltatori. Oggi cosa sta succedendo? Lo leggiamo sulle agenzie, insomma, è un tira e molla. Sì, e tra l'altro devo dirti onestamente che se le agenzie dovessero scrivere tutto ciò che sta succedendo, non scriverebbero altro, nel senso che Copenaghen, come abbiamo già detto, è veramente un evento mammut, un mega evento, per cui ci sono contemporaneamente 30 riunioni, panel di approfondimento, incontri tra scienziati, proteste, gruppi di pressione dei più diversi che si fanno sentire. E tutto il mondo è accorso a Copenaghen, è anche una vetrina, insomma, di quello che è il mondo oggi, mi sembra di capire. Assolutamente sì, su questo non si può negare. Tra l'altro, appunto, come abbiamo già detto all'inizio, 5.000 solo i giornalisti accreditati sono presenti, almeno in questi primi giorni, circa 1.800, quindi puoi immaginare, compresi tutti i grandi media internazionali. Ecco, invece sul fronte non solo delle notizie di oggi, ma delle cose che ti hanno colpito. Pronto, scusa Luca, non ti ho sentito. Sul fronte di quello che insomma ti ha colpito oggi, passando da una conferenza all'altra, che cos'è che ci puoi segnalare? Oggi direi che, ripeto, oltre, come hai detto giustamente, alla trattativa, alle posizioni diciamo di primo piano, sempre con la Cina in vista nel colpo su colpo con gli Stati Uniti, oggi è stato soprattutto qui il giorno della protesta di quelli che una volta si chiamavano i piccoli popoli, cioè le associazioni che rappresentano le comunità indigene di tutto il mondo. Oggi è stata una sorta di corteo rumoroso e festoso, devo dire, per ricordare quelle che sono delle situazioni estreme. In qualche modo la bandiera di questo movimento è rappresentata dall'isola di Tuvalu, di cui si legge parecchio sui giornali in questi giorni, perché la loro posizione è molto esplicita: intervenuti oppure noi spariremo letteralmente dalla faccia della terra. Esatto, stesso discorso era successo anche per, insomma, non una popolazione, ma anche per le Maldive. Ci sono state moltissime interviste, anche loro rischiano di sparire, stanno mettendo in campo delle politiche anche tecnologiche molto interessanti, per cui insomma era anche una passerella per ricordare al mondo che ci sono dei popoli e delle terre che insomma rischiano grosso con il riscaldamento climatico. Assolutamente sì, le priorità sono molto diverse, l'opportunità effettivamente di avere un'attenzione mediatica così alta non si trova spesso, mai in precedenza nei 14 COP precedenti c'è stata un'attenzione di questa portata. Tra l'altro, come forse vale la pena ricordare, che spesso intorno, diciamo, alle posizioni dei piccolissimi paesi si aggregano anche interessi più grandi. Il caso di Tuvalu è abbastanza esemplare, visto come dire, la portata e l'effetto di trascinamento sulle posizioni australiane, quindi un vicino più importante, ma diciamo più discreto. Ecco, noi ricordiamo che ci collegheremo anche domani con Gigi Donelli, lì il tema sarà l'auto del futuro, l'auto elettrica. Vedremo anche di capire cosa sta succedendo anche su questo fronte della sostenibilità a Copenaghen. Io per ora saluto Gigi Donelli. Grazie a voi, a domani. Ciao. Allora Cristina, torniamo a bomba sul tema della puntata, che è appunto la produttività della donna, e non solo quella, la produttività all'interno della famiglia. Abbiamo visto le tematiche legate al part time, al telelavoro. Mi ha molto colpito la Zavarit in realtà, e questa cosa che dice, no, rispetto al fatto di quando una donna torna dopo la maternità al lavoro, in realtà a questo momento, no, questo gap, questo aspetto di shock anafilattico da una parte, dall'altra il mondo del lavoro che in qualche modo non la riconosce o la guarda come un animale strano. Stavo pensando in realtà anche alle donne che in realtà non hanno figli ma vorrebbero gestirsi normalmente del tempo per poter stare a casa in realtà, e quindi far aumentare quel PIL in un'altra maniera, perché ci sono anche tante ragazze, no, single, tante donne single oggi, no? Le chiamano child free, e che semplicemente però non vorrebbero passare tutta la giornata, no, fissa, come, ecco, dire, sulla scrivania, a dover dimostrare che, no, si è lì e che, ecco, dire, però non si è da un'altra precisa, parte, cioè, non tutte le aziende, nel senso che hai osservato, sono così, cioè ci sono anche posti dove conciliare si può. Dove conciliare si può, sì. No, ma devo dire che insomma, pian piano il tema della conciliazione mi sembra che si stia prendendo piede in Italia. Per esempio c'è questa iniziativa regionale, no, della regione Lombardia, che questo premio famiglia lavoro, sono autocandidature, però sono aziende che sul territorio hanno programmi di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. Come diceva giustamente prima la professoressa Bocconi, secondo me è importante che la conciliazione rimi con condivisione, cioè non dobbiamo pensare che poi sia solo la donna che deve conciliare e che spetti soltanto lei. Io in questo senso devo dire sono fortunata, perché ho un marito alfa giovane che invece sulla condivisione dei ruoli è assolutamente sul pezzo. Ah, beh, bello. Sì. No, poi ci sono invece anche, come dire, delle donne che decidono di lavorare fuori, no, dal sistema delle aziende, ma che fanno le libere professioni, no, che in qualche modo cercano di gestirsi il tempo, non so se da casa, magari lavorando a casa, chissà se è calcolato. Ma questo è molto interessante, avevamo avuto anche modo di parlarne. Poi tutto il dramma di lavorare da casa è veramente possibile, perché giustamente in un'altra occasione parlavamo proprio con la professoressa da Bocconi, ci dicevamo d'accordo, per esempio il telelavoro, io su questo sono anche d'accordo con lei, diceva, ma se tu lavori da casa col telelavoro e hai però il figlio che ti tira da una parte, l'altro che ti rovescia lo yogurt, come fai a essere, cioè, efficiente, a gestire, a essere efficiente? È un pochettino difficoltoso, cioè si rischia di favorire quelle che comunque a casa hanno una persona che bada al figlio, alla casa e a tutto il resto, perché essere produttivi, soprattutto stiamo parlando di prima infanzia, di bambini molto piccoli che sono quelli che hanno problemi di asili nido eccetera, essere produttivi in casa con un bambino di pochi mesi, un anno, insomma, dipende anche dal tipo di lavoro che si fa, ma insomma non è facilissimo. Ma professor Profeta, io non sono un economista, adesso tra l'altro leggevo tra gli appunti della Zavarit che mi ha dato così gentilmente a disposizione, c'è un altro libro di Maurizio Ferrara che si chiama Il fattore D per la Mondadori, in base al quale si sostiene che se si portasse il livello di occupazione femminile in Italia al 70%, il nostro PIL crescerebbe di oltre il 20%, no? Qua poi sono tutti numeri, non lo so. Sì, in realtà anche noi, io con una mia collega avevamo fatto una stima ed eravamo uscite proprio sul Sole 24 Ore un paio d'anni fa, il titolo era Se solo lavorassero 100.000 donne in più. Avevamo stimato che appunto con 100.000 donne in più sul lavoro si poteva aumentare, stime molto approssimative, il PIL dello 0,28%, che non è tantissimo, ma che, considerato che la spesa per famiglia non arriva all'1% in Italia, da solo significa un incremento di un terzo di quella spesa, che poi può essere il motore di nuovo per un circolo virtuoso, cioè per far lavorare più donne perché si mettono a disposizione dei servizi. Quindi era tutto un circolo. Vorrei dire che qui stanno tutti annuendo tranne me, perché sono passati. No, però sono convinto. No, però la cosa incredibile è che da una parte si parla dell'aumento del PIL, no? Quindi è una cosa che interessa tutto il paese, come diceva anche la professoressa prima, dall'altro però perché il PIL aumenti e perché l'occupazione femminile aumenti, bisogna fare delle politiche di, proprio sociali, di aumento degli asili nido, ma anche di, che ne so, c'era anche nell'ultimo documento firmato dalla Carfagna e da Sacconi, che si chiama Italia 2020, no? Che è il programma di azione del governo per l'occupazione femminile, si parla parla, anche se se ne parla dal 2007, non si è mai fatto nulla di sgravi fiscali per il part time, di incentivazione di formule flessibili di lavoro. Fa bello metterlo dentro, cioè... tante chiacchiere, poi alla fine però guardate le donne che le mamme però guardate che le mamme, cioè io per esempio sono su un gruppo di LinkedIn che si chiama Mamme al Lavoro, le mamme pian piano si arrabbiano, cioè mamme che poi rispetto magari a una generazione fa come quella di mia mamma che mi diceva ma cosa stai lì a fare, stai a casa, stai tranquilla, le mamme adesso anche perché lavorano, perché hanno una preparazione accademica maggiore, perché hanno un introito proprio da gestire, quindi sono anche indipendenti economicamente e mentalmente, si arrabbiano, cioè incominciano a leggere i documenti, incominciano a capire tra il proclama facciamo questo e quello che non succede poi concretamente nella loro vita, oppure trovano delle soluzioni personali. Noi abbiamo in collegamento da Roma Vilva Silvestri, che in realtà è una creativa, un'artigiana diciamo, e io sono rimasta molto stupita, l'ho incontrata, è stata la costumista di Salvatores, di Tornatore, no? Una persona che ha trovato una soluzione personale poi alla fine, perché andava in giro per mercatini all'inizio per hobby, e è anche questa tanto l'Italia, no? Di persone che hanno una piccola bottega, non so, vogliamo ascoltare la biografia, siamo in tempo? No, però possiamo sentire direttamente lei. Buongiorno Wilma. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, allora, insomma, lei è la creativa in questo momento. Siamo passati dai numeri al blog alla creatività più pura. Sì, diciamo che a me piace molto il lavoro che faccio, l'ho scelto e quindi ogni giorno mi piace di più, devo dire, perché è una fonte inesauribile di soddisfazione, di gioia. Questo qua, no? Anche perché, è una cura per l'anima. Anche perché le consente anche una grande libertà e non deve stare in ufficio, tra l'altro. Quello senz'altro, anche se naturalmente mi costringe ad altro, no? Ad impegni, naturalmente, impegni lavorativi, di orario, fiscali. E tutto quello che comporta gestire comunque una piccola azienda. Nova Lab 24. Nova Lab 24. L'Australia ci ripensa sugli xenotrapianti. Le autorità sanitarie australiane hanno sospeso, dopo 5 anni, una moratoria sul trapianto di cellule di organi animali. Gli ospedali potranno così usare cellule di maiale per trattare diabete, morbo di Parkinson e ictus. Il National Health and Medical Research Council ha preso la decisione nonostante l'opposizione, oltre che degli animalisti, di alcuni specialisti di trapianti, secondo i quali non è dimostrato che la procedura sia sicura e che potrebbe creare virus letali. Migliora, anche se di poco, la salute degli italiani. Le aspettative di vita in Italia sono in sensibile miglioramento. In particolare le donne vivono in media 6 anni più degli uomini. È la fotografia dello stato di salute percepito dagli italiani che emerge dalla relazione sullo stato sanitario del paese, presentato oggi al Ministero della Salute. Secondo il rapporto, circa il 61% della popolazione si considera in buona salute, anche se più di 1 su 10 convive con una patologia cronica. Ricordiamo Innovation Circus, un concorso di idee per inventori di tecnologie. In palio 4 premi da 5.000 euro in servizi per l'analisi dell'idea e l'eventuale avvio di impresa. Lo indice il Centro per il Trasferimento Tecnologico Alintech, in collaborazione con Nova Il Sole 24 Ore. Entro il 31 dicembre, singoli inventori o gruppi di ricerca di tutta Italia possono presentare un'invenzione tecnologica originale con un alto livello di creatività che possa avere applicazione nei settori energia e sostenibilità ambientale, alimentazione e salute, information and communication technology, arte e design. Informazioni e regolamento su www.innovationcircus.it. Bentornati, Luca Tremolato al microfono. Cristina, parlaci un po' di Wilma Silvestri, che è qui in collegamento da Roma. Ma insomma, io quando sono entrata nel suo studio sono rimasta un po' ammaliata e ho pensato, ma sarà questa la soluzione? Cioè, perché il suo studio è in realtà una sorta di casa. Vedi Wilma che è lì con la macchina a cucire, fa gli abiti, poi le chiedi ma perché, per chi li fa? No vabbè, ma io ho fatto questa cosa per i fini Tornatore. No, perché mi scriva Wilma, mi racconti le cose che fa, e non mi scrive. Ha sentito Silvestri? Sì, diciamo che mi dispiace di non aver scritto subito a Cristina, ma veramente sono così presa dal mio lavoro, ma alla fine poco, delle volte poco anche attenta a promuovermi. Lo chiamano understatement, Wilma. Come? Understatement, cioè praticamente sì, sembrare meno di quello che si è. Adesso tutto il mondo è al contrario, però in linea di massima, no? L'umiltà è un dono apprezzato. Quando uno sta qua, cioè così, no? Sei preso dai progetti quotidiani, no? E non, poi alla fine non così, no? Trascuri anche delle cose importanti. Ecco, Vilma, cosa sta lavorando adesso? Abbiamo 30 secondi, ma vogliamo assolutamente saperlo. Ma in questo periodo sto continuando un lavoro sulle sedie, su delle sedie diciamo vintage, no? Trovate nei mercatini, delle volte alcune da dire il vero le ho trovate vicino ai cassonetti e le sto reinterpretando, cioè, le veste, così gli do una nuova vita. Per cui la cosa che mi diverte di più è che in ogni sedia c'è qualche elemento che si può staccare e portare dietro con sé, no? Una borsa, ad esempio, in cui mettere il libro che leggi seduto, e la stessa borsa poi la puoi smontare e portare via e uscirci. Un po' una reinvenzione della borsa. Sì. Metteremo su. Ha un blog, ha un sito internet? No. Facebook. Sì, un blog. Allora metteremo su il Twitter di Nova Lab 24 l'indirizzo, così anche chi non è a Roma può venirla a visitare. Io ringrazio Vilma Silvestri, ringrazio Anna Zavarit, ringrazio la professoressa Paola Profeta e ringrazio naturalmente Cristina Tagliabue. Noi grazie, ci sentiamo domani. Ciao.